furia bella e crudele, sono ben tutte, tutte furie le donne brutte. Ma Angelica è una furia, eppur è bella. Angelica, sì, Angelica, che già tanto fedel mi protestava amore. Ma che vedo, ella è dessa, il cor s'arrabbia. Angelica, mio bene, in faccia mia, dunque ardisce pellon, tenerla in gabbia. Roberò questi ferri, e che pretendi? Combattere, hai ragion, via, ti difendi. Tieni dai qua e addosso. Contro il mio cuore nato. No, no, disarmato. Fanne, minaccia ancor. La tua pazzia più non merda fedò la pietà mia. Sorge il sangue. Già caduto è morto il suol. Con gli stessi armi sue vi spezzo ferri.